Oh, Giovanni, per te qua chiana, adesso la senisse. Per me adesso? No, per me la senisse. Signore, invece per lei qua chiana, adesso la senisse. Ma per me qua chiana, tanto sono tutto qui inutile. Basta una chiana controllore che sono senza biglietto. Siamo pagiunacca.